in primo piano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti a In Primo Piano, la rassegna stampa di Radio 24. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio. Oggi i giornali hanno ampiamente recuperato e dato peso alla tragedia di Viareggio, che ieri avevano soltanto sfiorato, visto l'ora tarda a cui si è accaduta, e quindi oggi i giornali dedicano moltissime pagine. Il Corriere della Sera, per esempio, da ben 15, le 15 prime pagine del suo numero oggi in edicola, tutte dedicate a ogni possibile aspetto di quanto è accaduto con l'esplosione del treno, insomma un impegno adeguato all'ampiezza e al dramma di quanto accaduto. E questo accomuna un po' tutte le prime pagine dei giornali, si scandaglia nei motivi, si cercano le responsabilità e si raccontano anche le tante storie personali delle vittime e dei tantissimi sfollati. Vi do qualche assaggio dei titoli in prima pagina, cominciamo con il Corriere: inferno a Viareggio, è una strage, il treno esploso, 14 morti e 3 dispersi, 1000 sfollati, palazzi sventrati e si scava ancora. I giornali sono pieni anche di editoriali, di interviste, non avremmo bisogno di tutta la giornata soltanto per darvi un assaggio di quanto materiale, di quanto materiale giornalistico è stato diffuso sugli eventi di ieri notte, la strage del treno bomba, sulla Stampa, e poi i giornali che scelgono titoli diciamo più evocativi o allusivi. Il Manifesto ha una grande copertina con a caratteri cubitali il titolo Merci, e si legge 14 carbonizzati, 4 dispersi, oltre 1000 sfollati, il bilancio della strage nella stazione di Viareggio. Il treno deragliato lunedì notte trasportava un carico di GPL diretto all'azienda di famiglia di Nicola Cosentino, sottosegretario del PDL. Questo non si capisce tanto quale sia il collegamento, come se fosse una colpa ricevere diciamo la merce. Proteste dei ferrovieri, tragedia annunciata, arriva Berlusconi ma lo contestano. Nell'Italia a rischio oggi è il giorno del pacchetto sicurezza. L'inferno degli innocenti è il titolo del Messaggero, la prende diciamo di striscio, la prende da un altro verso il Riformista, che si occupa dello stesso tema ma con un titolo un po' inaspettato e d'effetto: la sfiga di Silvio, dopo l'Abruzzo la nuova tragedia di Viareggio. E Berlusconi contestato l'arrivo, lo vedremo. Repubblica gli dedica 2 pagine a tutta la vicenda dei fischi e delle contestazioni. Berlusconi ha un'altra grana, ma assicura ce la faremo. Tra i giornali che hanno un titolo diverso, Libero, che ha un'apertura dissonante rispetto al coro del giornale di oggi, dedica il suo titolo di prima pagina a una vicenda pure importante, le dimissioni volute da Nichi Vendola della giunta regionale di Pugliese. La sinistra si dimette per l'inchiesta di Bari, azzerata la giunta regionale di Nichi Vendola. Altro che Berlusconi, è l'occhiello di Libero. Vedremo anche questa notizia nelle pagine interne. C'è poi, ci sono alcuni titoli interessanti di carattere economico sul Sole 24 Ore: il Tesoro sblocca 23 miliardi. Tremonti, già dal 2010 i benefici della detassazione degli utili. Con decreto anticrisi, assestamento di bilancio, smobilizzate risorse per pagare le imprese. Viene anche ridimensionato il calo del gettito di 37 miliardi del gettito fiscale. Voglio segnalare anche dalla prima pagina dell'Avvenire, ancora sul versante economico: l'Italia inflazione ai minimi dal 68, a giugno i prezzi sono calati dello 0,1, gas e luce, da oggi calano le tariffe. Addentriamoci però per quanto possibile nel tema di oggi, nella vicenda principale di oggi, e vediamo cosa dice il Corriere della Sera. Sono 14 le vittime finora accertate della tragedia avvenuta alla stazione di Viareggio in seguito al deragliamento di un treno merci carico di GPL. Interi palazzi crollati, una trentina di feriti, la metà dei quali sono ancora in gravi condizioni, 1000 gli sfollati. Sul posto si è recato il premier Silvio Berlusconi, accolto da fischi e applausi. Dichiareremo lo stato di emergenza. Le ferrovie, sulle cause dell'incidente, ha ceduto un asse, non risultano errori dei macchinisti. L'amministratore delegato Moretti dice: dai controlli nessuna anomalia, ma adesso si indaga su revisioni e manutenzioni. Sulla prima pagina, sempre del Corriere, Sergio Rizzo dice: niente alibi, in un editoriale che comincia così: lo scaricabarile, ecco ciò che deve essere evitato a ogni costo. Per rispetto alle vittime del tragico incidente di Viareggio, le responsabilità vanno accertate rapidamente. Se qualcuno ha sbagliato, deve pagare senza sconti, e se esiste un problema di sicurezza, si affronti senza indugio. Ecco, lo scaricabarile, il rimpallo delle responsabilità. C'è però un articolo a pagina 5 dello stesso quotidiano che ci fa capire come probabilmente non sarà facile risalire al filone delle colpe. La questione è abbastanza complessa. Si spiega a pagina 5, dicevo, con un articolo di Gianni Santucci, quale potrebbe essere stato il motivo dell'incidente: una ruota finita fuori asse, rotta perché si è spaccato di netto il cilindro esterno che la teneva insieme con il carrello, e così alla prima curva è uscita dai binari provocando il deragliamento. Sarebbe questa l'ipotesi più accreditata, in mano ai magistrati e alla polizia, per spiegare la causa del disastro di Viareggio. Tra l'altro si ricostruisce in un lungo articolo la filiera di questo treno. Partiamo dal treno deragliato. Il proprietario è il colosso americano GATS, azienda che possiede 160.000 vagoni cisterna per il trasporto di derivati del petrolio, GPL e altre sostanze. La flotta europea, gestita da sedi in Germania, Austria e Polonia, è composta da 20.000 carrozzi. I vagoni vengono concessi in affitto. Li consegniamo in perfetto stato, spiega un dirigente dell'azienda a Vienna. A quel punto gestione, conservazione e controlli di routine spettano a chi affitta. In questo caso il convoglio era affidato a FS Logistica, del gruppo Ferrovie dello Stato, e veniva usato nel contratto di servizio con la raffineria Sarpom di Trecate. In quello stabilimento il treno è entrato alle 16 di ieri per caricare il GPL. Quando ripartito dovrebbe essere state fatte le verifiche che precedono ogni viaggio: controllo dei documenti, ispezione carrelli. È un altro passaggio che andrà verificato. Sta di fatto che il vagone deragliato era relativamente nuovo, costruito nel 2004, immatricolato in Germania e sottoposto a revisione il 2 marzo. Quindi molti attori in questa tragedia, tra l'altro anche il sospetto che possa anche essersi soltanto verificato di una terribile casualità, lo segnala sempre questo articolo. Un ultimo particolare in mano agli investigatori introduce un elemento di fatalità nell'incidente. Le cisterne sono infatti costruite per sopportare gli urti, anche nel caso in cui si rovescino. 3 dei 4 vagoni ribaltati hanno resistito infatti senza perdite. L'ultima invece è caduta su un picchetto, un segnale piantato accanto ai binari. La cisterna è stata così infilzata. Da quello squarcio è uscito gas ed è bastata una scintilla per provocare l'esplosione. Quindi niente scaricabarili, probabilmente le responsabilità sono intrecciate e difficili da districare, ma c'è anche probabilmente una tragica fatalità. Sullo sfondo della tragedia di Viareggio c'è la vicenda che vede protagonista il premier Silvio Berlusconi, che come sapete ieri si è precipitato a Viareggio per verificare la situazione. Pagina 8 e 9 di Repubblica, interamente dedicata a questo suo viaggio lampo, accompagnato da molte proteste. Berlusconi contestato in piazza, esplode la rabbia della gente, urla insulti all'arrivo. Il governo annuncia lo stato di emergenza. Si dice tra l'altro: all'Aquila dei rifiuti ormai è tutta fiction e il premier esce dalla porta di servizio. Protesta contro il cavaliere al grido di buffone i suoi sostenitori: no Silvio, i problemi li risolve davvero. Si citano alcune opinioni raccolte tra la folla: pensavamo che lui parlasse alla gente, invece è entrato blindato dalla scorta. Siamo in emergenza, la gente si risponde, invece c'erano anche sostenitori del Presidente del Consiglio: siamo in emergenza, la gente invece di ringraziarlo per essere venuto qui gli sputa addosso. Claudio Tito su questa stessa pagina analizza la paura del cavaliere di essere contestato, quei fischi ingigantiti da giornali e TV, ma l'ansia per le proteste tormenta il cavaliere. In Versilia non ha funzionato il metodo Abruzzo, degli applausi non si parla, la gente è sempre con me. E si racconta come Berlusconi anche in campagna elettorale avesse evitato ogni bagno di folla, ogni comizio in piazza. Questo era il suo primo rientro, diciamo, davanti alla gente dopo tutta la vicenda degli scandali che hanno accompagnato gli ultimi mesi, e non è stato indolore. La folla ha protestato anche con insulti che qui in radio non è il caso di leggere, così come li citano i giornali. Torniamo brevemente dal Corriere, dove Massimo Franco fa il punto politico collegato anche alla vicenda della strage. L'attivismo del Premier vuole sottolineare la capacità di reagire. Dice: la spola di ieri fra Napoli e Viareggio, Berlusconi è stato anche a Napoli, infatti, trasmette l'immagine di un Presidente del Consiglio inseguito dai problemi. Si torna in questo caso al titolo del Riformista, la sfiga del Cavaliere. È deciso a dimostrare di essere in grado di dominarli nonostante le contestazioni subite sia nella città partenopea che di fronte al disastro ferroviario in Toscana. Fischi e insulti attribuiti da Silvio Berlusconi alla sinistra della CGIL, ma rivendicati da una parte dell'opposizione come la conferma di una crisi economica che morde e mette in tensione il governo. La sensazione è che il Premier voglia cancellare il suo profilo privato, scalfito dallo scandalismo, e cerchi di sovrapporgli un attivismo ed una presenza che dovrebbero combattere una sfiducia ritenuta insidiosa quanto e più della crisi in sé. In realtà l'inchiesta giudiziaria di Bari, che ha fatto emergere alcune frequentazioni femminili di Berlusconi, ieri sera potrebbe aver preso una piega diversa. Il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha chiesto agli assessori della giunta di centrosinistra di dimettersi. Una decisione drastica, forse legata agli sviluppi delle indagini. Ma per Palazzo Chigi, in queste ore, l'emergenza è un'altra. E in effetti questo è accaduto, ne parlano tutti i giornali. Noi lo prendiamo dal Messaggero, pagina 9, c'è una... campeggio la foto del presidente della regione Puglia Vendola, che era impegnato in questi giorni in un viaggio istituzionale in Canada, quindi ha affrontato il tema soltanto ieri. Bari, tangenti nella sanità, e Vendola zera la giunta. Il governatore apre a UDC e IDV, sono avvenuti fatti politici nuovi. E si legge tra l'altro: Nichi Vendola, governatore della Puglia, zera la giunta regionale. La decisione è una conseguenza dell'inchiesta della procura di Bari per presunte tangenti nella fornitura di materiale sanitario, che sta scuotendo il mondo politico e quello imprenditoriale. Il presidente della regione ha dunque chiesto e ottenuto che tutti i suoi assessori rimettessero le loro deleghe nelle sue mani. Vendola ha convocato una conferenza stampa e ha spiegato che la decisione è legata a fatti politici nuovi e a fatti indirettamente politici, facendo un chiaro riferimento alle inchieste in corso. In Puglia ha dunque ammesso il governatore: nonostante gli sforzi giganteschi che sono stati compiuti dalla giunta regionale, il sistema sanitario si conferma permeabile agli interessi delle lobby e delle corporazioni e anche a spinte corruttive. Purtroppo, aggiunto, c'è una trasversalità in cui questi interessi che non intendo nascondere. È stata sospesa anche la manager, direttore generale delle ASL pugliesi, Lea Cosentino, che aspetterà a casa l'esito delle indagini su Squillo e Festini. Vi ricordavo che Libero prende spunto da questa vicenda per un titolo molto forte: la sinistra si dimette, altro che Berlusconi. E tra un momento leggerò anche qualche riga dell'editoriale di Luigi Paragone di questo giornale. Sul quotidiano Libero, che ha l'aria un po' di festeggiare questa decisione di Vendola di azzerare la sua giunta in seguito alle inchieste pugliesi. D'altro canto, Libero è il giornale che più di ogni altro aveva alluso, raccontato, messo in connessione questa inchiesta alle famose scosse, ricorderete le scosse che Massimo D'Alema aveva previsto per il governo in quella famosa intervista con Lucia Annunziata. Libero sosteneva che le scosse maggiori le avrebbe avute invece il governo pugliese. Gianluigi Paragone, editorialista di Libero, dice: a furia di cercare sotto le coperte di Silvio Berlusconi esce fuori un'altra storia, una storia che già avevamo nelle orecchie. Il Cavaliere nelle inchieste di Bari non c'entra un fico secco, e se qualcosa di strano sarà mai accaduto coinvolge esponenti del centro-sinistra. Forse proprio per mettersi al riparo da sconquassi giudiziari, ieri si è dimessa in blocco l'intera giunta di Nichi Vendola, e Lady ASL, cioè la responsabile della sanità pugliese, è stata congelata. Quindi Libero si accredita come il quotidiano che aveva previsto questa eventualità. Noi però passiamo ad altri temi. C'è in primo piano, come ogni giorno ormai in vista del congresso, la politica che riguarda il Partito Democratico. Oggi la notizia è che non ci sarà, perlomeno non ci sarà fino ad oggi, un terzo uomo. Quello che si aspettava era il sindaco di Torino, Chiamparino. Ne parla La Stampa, il quotidiano di Torino, che dà molto spazio ovviamente alla decisione del suo sindaco di restare nella sua città. Non mi candido, resto sindaco, lo devo a Torino. Pagina 12 e pagina 13, tutte dedicate, diciamo, al percorso piuttosto contorto e complicato che porterà il prossimo 25 ottobre al congresso del PD. E Chiamparino parla con La Stampa, notte al computer, convinto dalle email. Dice: la notte ha portato consiglio, tirato per la giacca, strattonato da tanti, ma non da big che potessero assicurare un significativo peso interno all'interno del partito, Sergio Chiamparino ha deciso, ringrazia tutti, ma spiega la stampa, che non si candiderà a segretario del PD. Ci ho riflettuto una notte intera, ho deciso così. Per fare la corsa bisognerebbe viaggiare per l'Italia, in lungo e in largo. Non mi resterebbe tempo per Torino. E questo è sbagliato per la città, per i suoi abitanti che mi hanno eletto. Mi mancano ancora 2 anni. Per provare allora a capire che tipo di riflessioni ha fatto e anche che tipo di persona sia Chiamparino, occorre fare un passo indietro e tornare alla serata di lunedì, quando il sindaco è entrato a casa. È stata una giornata complessa, successiva al weekend del Lingotto, nel quale i quarantenni hanno applaudito convinti le sue parole e molti di loro gli hanno chiesto un impegno diretto. Chiamparino appunto poi si è seduto al computer, è tornato a casa, ha acceso il computer e così ha preso a fare, si è messo a leggere le email che gli arrivavano dai torinesi, anche convinti lettori del PD, persino quelli scettici sulla diarchia che si va profilando, gli rivolgevano inviti a restare, chi gli sottolineava una questione legata a San Salvario, chi gli parlava di quanto resta da fare a Porta Palazzo, chi domandava lumi sul futuro del traffic, il festival rock che è un'eccellenza italiana di questi anni. Sergio ha letto tutte le email una per una, ha capito quel legame, prima di non poter non lo voleva interrompere, la sua dimensione è quella, la sua estraneità al gioco romano della giacchetta totale, quindi una versione un po' romanzata della rinuncia di Chiamparino a correre come segretario del PD. Diciamo, l'unità si occupa di rendere un po' più realistiche e realistici i motivi del suo ripensamento. Non si è trattato soltanto delle email, almeno l'unità questo non sembra crederlo fino in fondo, e titola: troppo silenzio intorno, per questo non mi candido. Il sindaco di Torino, per vincere, io avrei corso per vincere, hai bisogno del sostegno degli amici e del partito, che non è arrivato. Si legge infatti, per vincere c'è bisogno del sostegno del Popolo Democratico, naturalmente degli amici e dei compagni, ma soprattutto c'è bisogno del partito. Così mi sono messo in attesa di qualche telefonata rivelatrice, non sono arrivate. Non ho sentito, non dico Letta, ma neppure Fioroni, non ho sentito nessuno di coloro che stanno preparando il congresso, né D'Alema, certo, né Fassino. Da Piero, per meglio dire, non ho sentito una parola chiara, e poiché ci conosciamo e ci stimiamo da 40 anni, ho capito. Quindi sì, le email dei torinesi che gli chiedevano di occuparsi di San Salvario, ma soprattutto un po' il gelo, il silenzio dei big del partito che non hanno preso posizione con lui. Veniamo ai temi economici che avevamo annunciato, prendiamo il Sole 24 Ore in prima pagina. Si legge questo: ammontano a 23 miliardi di euro le risorse sbloccate alla pubblica amministrazione per pagare le imprese, di cui 18 provenienti dalla legge di assestamento del bilancio e 5 dallo sblocco addizionale dei pagamenti contenuto nel decreto legge anticrisi. Lo ha dichiarato ieri il ministro dell'economia Giulio Tremonti, puntualizzando un altro importante passaggio delle misure in merito alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari. I benefici finanziari si vedranno già nel 2010 e non nel 2011, in quanto il provvedimento si riferisce al primo periodo utile per iniziare questo scomputo e dunque nell'acconto e nel saldo con beneficio di cassa già nel 2010. Tremonti prevede che la legge di assestamento sarà approvata in Parlamento tempestivamente per rendere i soldi disponibili entro luglio o entro la fine dell'estate. Il nuovo decreto anticrisi, varato venerdì scorso dal governo, arriverà in prima lettura alla Camera. Il provvedimento è atteso oggi a Montecitorio. La settimana prossima inizierà l'esame del testo delle commissioni in bilancio e finanze. Il ministro ha poi detto che l'andamento delle entrate fiscali preannunciato dal premier Silvio Berlusconi in calo di 37 miliardi a fine 2009 è in linea con le nostre previsioni. Il nuovo quadro macroeconomico del prossimo DPF, ha aggiunto Tremonti, sarà in linea con le stime dei principali organismi internazionali, ne consegue che la stima per il PIL dovrebbe essere rivista dal meno 4,2 indicato dalla RUEF di aprile a oltre il 4,5%. Avevamo visto notizie di altro tenore anche dall'Avvenire. Sull'inflazione, i minimi dal 68, il caro vita si attesta allo 0,5 anno, nella UE per la prima volta è negativo. Pesa la recessione, ma il differenziale tra l'Italia e Europa resta comunque ampio. Nuova discesa a partire da oggi per bollette di luce meno 1% e gas meno 7,7. Tremonti a famiglie e imprese 2 miliardi dal taglio delle commissioni bancarie. Alcune notizie di politica estera che vale riprendere, le prendiamo dalla stampa, la prima pagina 14. all'interno del viaggio che Barack Obama farà in Europa in occasione anche del G8 dell'Aquila, è previsto un incontro con il Papa Benedetto XVI, lo segnala la stampa a pagina 15, Obama e Ratzinger dopo il grande freddo, prove di amicizia. Si legge nell'articolo di Galeazzi, dopo mesi di scontri e il realismo della dottrina sociale della Chiesa, unire Benedetto XVI a Obama, atteso a Palazzo Apostolico il 10 luglio, al termine del G8. I temi in agenda affiancano le problematiche di tipo etico e biopolitico, aborto, ricerca sulle staminali, embrionali, eutanasia, obiezione di coscienza dei medici, alle preoccupazioni per la situazione internazionale, con particolare riferimento al conflitto israelo-palestinese, a quello iracheno e alla mano tesa al mondo arabo e all'Iran. Ma sotto la contingenza politica e diplomatica di individuare il terreno comune tra Santa Sede e Casa Bianca è il dossier dottrinario del cardinale Georges Cottier, teologo emerito della Casa Pontificia. Nei Sacri Palazzi, rivela il mensile 30 giorni, sono stati analizzati in profondità i discorsi di Obama all'Università Cattolica di Notre Dame e a quella islamica di Al-Azhar, ravvisandovi elementi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, come il bene comune e riferimento a criteri e norme morali. Pochi secondi per segnalare un altro articolo molto interessante di Maurizio Molinari sulla pagina 17 della stampa, Iraq in balia dei big del petrolio, i margini di guadagno ritenuti insufficienti, deserte quasi tutte le gare di appalto, le compagnie petrolifere di tutto il mondo nella capitale per le concessioni offerte dal governo, ma ci sono state pochissime offerte. Noi qui ci fermiamo, un saluto da Giancarlo Loquenzi, l'appuntamento è a domani, c'è ancora un minuto, allora leggo qualche riga in più di questo articolo, appunto interessante, anche se secondo me il titolo non è azzeccato. L'Iraq in balia dei big del petrolio, si capisce dall'articolo infatti che anche il governo ha avuto un po' il governo iracheno ha avuto parte di responsabilità nell'aver offerto prezzi troppo bassi per la vendita del petrolio iracheno. Si legge nell'articolo: nel giorno in cui l'esercito USA ha completato il ritiro della città irachena a Baghdad, si sono svolte le gare per l'assegnazione dei contratti per 10 giacimenti petroliferi e di gas, ma è stato un mezzo passo falso perché i giganti del greggio chiedono migliori condizioni prima di farsi avanti con gli investimenti necessari. Le gare internazionali sono le prime per l'Iraq da oltre 3 decenni e per il premier Nouri al-Maliki si tratta di un vitale esercizio di sovranità, ma l'invito a partecipare ha ricevuto per ora un'accoglienza assai fredda. Questa volta ci fermiamo sul serio, di nuovo un saluto e appuntamento a domani con Il Primo Piano.